Victoria. Faceva avanti e indietro in cucina. Avrebbe tanto voluto avere ancora una sigaretta, ma se l'era già fumate tutte. Aveva ripassato il piano centinaia di volte. Qualcosa poteva andare storto, terribilmente storto, ma era costretta a tentare. Malte doveva morire, e se Victoria non voleva passare gli anni successivi in prigione, quello era l'unico modo. Aveva fatto la sua parte, adesso toccava all'altra donna, che avrebbe già dovuto essere nei dintorni. Aveva segnato l'albero giusto con discrezione, e il furgone era in garage, inutilizzabile. Di lì a poco, Malte avrebbe finito il suo turno al distributore, si sarebbe infilato il casco e avrebbe inforcato la moto. Se tutto andava come doveva, avrebbe preso la solita scorciatoia attraverso il bosco, purché non iniziasse a piovere. Quella mattina lo aveva sentito imprecare in garage, furibondo. Quando era entrato in casa come una furia, Victoria per un attimo aveva temuto che sospettasse di lei. Ma era solo la sua immaginazione. A Malte non passava nemmeno per la testa che lei fosse in grado di sabotare un motore. In realtà si era limitata a staccare i cavi della batteria. Solo che Malte era talmente stressato e in ritardo che non aveva nemmeno aperto il cofano per vedere cosa non andava.